A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Buonasera, mi dice un carabiniere in divisa. È lei Giuseppe Gulotta? Sono io, rispondo. Deve venire con noi. Provo a capire perché. Nulla di particolare, è per delle informazioni. Quella notte del 12 febbraio 1976, Giuseppe Gulotta entrò così nel suo incubo durato 30 anni. Entrò quella sera in una caserma accusato di un terribile delitto, la strage di due carabinieri in Sicilia, ad Alcamo, e solo il 13 febbraio 2012 è uscito definitivamente dal carcere e dal suo personale film dell'horror, libero dopo 22 anni dietro le sbarre e dopo 36 dall'inizio della sua odissea giudiziaria. Giuseppe Gulotta, 54 anni, è uno dei non pochi, ahimè, italiani finiti in cella da innocente. La sua giovinezza l'ha vista sfiorire dietro le sbarre di un cancello. Il figlio più piccolo l'ha visto crescere sotto i neon della sala colloqui. E ora che ha sentito finalmente quella parola magica, assoluzione, anche se il suo viso è rigato dalle rughe, prova ugualmente a ricostruirsi una vita. Lui che è stato la terza vittima di Alcamar, come si definisce nel libro, per i caratteri di chiare lettere, che racconta la sua storia. Alcamar, appunto, Alcamo Marina, il nome del suo paese, ma per lui soprattutto il nome del suo peggior incubo. All'inizio un po' di sbandamento, ero già fuori in parte con la semilibertà, perché il giorno lavoravo e rientravo la notte, però quel senso di libertà, cioè, è stata un'esplosione immensa quando ho sentito quelle parole di assoluzione. Io lì avevo mia moglie e mio figlio William, e ci siamo abbracciati, ci siamo messi subito a piangere, non per la vittoria avvenuta, ma per il processo che è finito nel giusto modo, ecco. Senza alcun dubbio, chiaramente la speranza c'è sempre, ma immagino ci sia anche lo smarrimento di aver passato 20 anni in carcere da innocente, una roba da impazzire. Sì, sì, questo 20 anni sono stati, in tutto 22, però 20 anni dal 90 al 2010, che poi nel 2010 ho acquistato la condizionale. È un periodo d'inferno, come dico io, carcere la notte, perché di giorno in qualche modo ti svaria. La libertà è potersi muovere, ecco. Io da quando sono stato assolto, se prendo, posso decidere per me stesso, invece prima decidevano altre persone per me. È impossibile per chi non provi un calvario di questo tipo immaginare che cosa possa essere stato, ma ci provi lei a farci capire che cosa significa essere chiusi dentro una cella sapendo di essere innocente. Prima di tutto si sta male, io mi sono isolato, io malgrado ero in carcere, con la testa ero sempre al pensiero di poter, che qualche cosa sarebbe venuta fuori e per poter tornare in libertà. Tornare a vivere con mia moglie e i miei figli e i figlioli, cioè il senso, il chiuso della cella ti fa pensare tante cose, ti fa pensare cosa faranno i familiari, cosa farà la moglie, potrà andare avanti, andrà avanti, mi aspetterà. Io avevo anche questi dubbi quando stavo in carcere, però siccome io ero e sono un innocente, mi sono aggrappato alla speranza, voglio dire, speravo che prima o poi qualcosa sarebbe venuta fuori. Fortunatamente dopo tanti anni è venuta fuori, ce l'ho fatta, diciamo. Lei dice ha avuto la forza di crederci fino alla fine, ha avuto la forza di aspettare. 20 anni sono una quantità di tempo infinito. La vicenda parte da una caserma, diciamo un punto della località di Alcamo Marina, che quel punto si chiamava Alcamar, ecco. È la zona, diciamo, che è una parola, sì, però sì, chiaramente araba. Che vuol dire araba? Alcamar? Alcamo Marina, Alcamar. Per lei però questo è il nome che ha sancito, che ha significato per lei l'inizio, certo, del suo inferno giudiziario, perché appunto del suo calvario, perché lì si è consumata quella strage, quell'eccidio, certo, di carabinieri, che poi è stato quell'accusa infamante e ingiusta che lei si è portato dietro per tanto tempo, appunto. Sì, due carabinieri, 6 anni. due carabinieri furono ammazzati, furono uccisi nel 76, furono uccisi il 27 gennaio 76. Il 27 gennaio del 1976. Ritorniamo a quella giornata, perché lei allora era giovanissimo e la ricorda benissimo, chissà, casomai proprio perché forse sentiva che quel giorno le avrebbe cambiato la vita. Di quell'eccidio se ne parlava nel paese. Il giorno dopo vedevo elicotteri sorvolare la zona. Io lavoravo in quella zona, in quel periodo, nella zona di Alcamon Marina. Nulla, non mi immaginavo nemmeno che io potessi entrare a far parte di questa storia. Non avevo motivi per pensare che io sarei stato arrestato per questo motivo, perché non avevo mai avuto problemi di giustizia. Anzi, in quel periodo avevo fatto io richiesta per fare, diciamo, il finanziere, indossare anch'io una divisa, diciamo. Io quando la sera del 12 febbraio alle ore 22 mi vengono a prendere i carabinieri a casa, mi casca il mondo addosso, non capivo come mai. Io li seguo con tranquillità, e la notte che poi mi hanno fatto capire il motivo per cui mi hanno portato in caserma. Ad accusarla fu Giuseppe Vesco, considerato il capo di una banda che poi morì con un suicidio molto poco chiaro e dai contorni ancora del tutto opachi. Per quell'eccidio si parlò inizialmente anche di un'ipotesi di terrorismo, siamo appunto negli anni del pieno terrorismo, si era ventilata anche una ipotesi mafiosa che però fu subito scartata. Inizialmente appunto la sigla che sembrava aver compiuto quel duplice delitto era il Nucleo Armato Siciliano, ma poi ben presto appunto le Brigate Rosse negarono ogni partecipazione a quel delitto, quindi quegli scenari, diciamo, si infransero uno dietro l'altra, finché appunto le accuse di questo del capo di questa banda, Giuseppe Vesco, portarono a lei. La ricostruzione dell'accusa qual era? La ricostruzione che avrebbe fatto, gli hanno fatto fare il Vesco, è che io sarei entrato e sarei stato io l'esecutore materiale. Io che in vita mia non ho mai avuto in mano una pistola, non so nemmeno come funziona, insomma, mi hanno messo come esecutore materiale. Lei scrive che lei aveva tenuto in mano soltanto una lama da barbiere, oppure la zappa per lavorare la terra. Io facevo, all'inizio da ragazzino facevo il barbiere fino all'età di 15 anni circa, poi mi sono messo a fare il muratore, qualche volta accompagnavo mio padre in campagna, cioè appunto le armi che io ho avuto in mano sono stati il rasoio, il martello da muratore oppure la zappa di mio padre, ecco, questo sì, è vero. E nella versione di Vesco qual era la ragione per cui lei ed altri due complici in teoria avreste dovuto uccidere quei due carabinieri? Ma che io sappia, i moventi non c'è mai stato. Alla fine il momento è stato che quattro balordi si riuniscono e fanno un'azione che è così, per puro piacere, ecco, si arriva a questo, più cazzo a dire. Si riuniscono e vanno a uccidere due persone così, senza motivo. Ovviamente all'epoca non c'erano, diciamo, anche perizie scientifiche né quelle prove che si fanno sulle armi da fuoco a portare a queste prime sentenze, che poi sono state solo da ultimo ribaltate per lei. Fu quella che gli inquirenti considerarono una confessione, la sua, estorta dopo lunghe ore di torture. Di torture, io tutta la notte sono stato, fino alla mezzanotte sono stato lì in una stanza, all'improvviso in quella stanza si apre la porta, mi afferrano, mi mettono su una sedia, mi legano mano e piede e si mettono a picchiare da orbi, ecco, botte da orbi, che io, ma senza che mi dicevano nulla. Successivamente mi hanno detto che io sarei stato l'autore, diciamo, e mi facevano: raccontaci come avete fatto, come hai fatto a uccidere i carabinieri. E io l'unica risposta che dicevo era quella: non so nulla, non c'entro nulla, che volete da me, non so nulla, che antecedenti verbali mi avevano, come dire, imboccato quello che dovevo eventualmente dire al momento dell'interrogatorio. Tante cose che io ho riletto nel verbale, tante cose io non le avevo mai dette. Le domande erano proprio mirate, precise, che io dovevo dire solo sì e basta. Praticamente, cioè, dopo questa lunga notte di torture e di percosse, lei a un certo punto disse: io vi racconto tutto quello che volete purché la smettiate. Sì, purché la smettiate, sì. Ditemi quello che volete che io vi dica, purché basta che la finite. naturalmente detto in siciliano. Io ora il siciliano me lo sono un po' dimenticato, il dialetto. Anche questo è stato un po' un effetto del carcere, il fatto che lei ha perso un po' la sua lingua. Sì, perché io è dal 78 che mi trovo in Toscana, allora ho cercato anche qui per farmi capire, ho dovuto inventarmi un dialetto mio, non so se è un po' italiano, un po' toscano, un po' siciliano, ecco, questo non mi rendo conto nemmeno io, però... È stata una lingua un po' che ha messo insieme molte parti d'Italia, quante quelle che si possono incontrare in un carcere. Ecco, signor Gulotta, lei firmò quel verbale, un verbale in cui praticamente... dichiarava di aver eseguito quei delitti. Sì, io alla fine sono stato anche lì costretto a firmare che io non so, un istinto di sopravvivenza, non ho capito nemmeno io come mai, però ecco, non volevo firmare in quell'occasione, non volevo, un carabiniere mi afferra per un braccio, strattonandomi, dicendomi sottovoce anche, dice guarda, te non firmi, non sai che cosa ti faremo ancora. Quindi lei era consapevole del fatto che stava firmando un verbale in cui diceva di aver ammazzato due carabinieri? Non volevo firmare, ma il motivo ancora oggi non mi rendo conto come mai, ecco. Anche lì mi hanno fatto firmare con la forza, diciamo. Tant'è che quando poi il pomeriggio sono stato interrogato dai magistrati, io ho detto subito che il verbale fatto ai carabinieri è stato un verbale, me l'hanno fatto fare con le forze, con le minacce e via, si imposte e tutto. E loro mi hanno detto, ma il verbale è stato anche firmato, gli ho detto, anche lì sono stato costretto a firmare. Quella firma per lei è stata la sua autocondanna, diciamo, perché per quella firma lei è stato condannato. Con il senno di poi io mi rendo conto che se quella firma non la mettevo, può darsi un minimo di sdraio, ancora ci potesse essere. Che vuol dire essere chiusi in una cella per 22 anni da innocente? Se chiudo gli occhi e cerco di immaginarlo, mi sembra di impazzire in realtà. Giuseppe Gulotta ha resistito invece e 22 anni dopo è di nuovo libero, ma in quelle celle, come sentiremo nella seconda parte di A ciascuno il suo, lui ha incontrato altri detenuti innocenti come lui. E infatti tanti sono quelli che chiedono allo Stato risarcimenti per ingiusta detenzione. A ciascuno il suo. Venti ettari bruciati a Castelvetrano, patria di Matteo Messina Denaro, aranceti devastati alle pendici dell'Etna tra Paternò e Belpasso, poi ancora fiamme a Mesagne in Puglia e a Borgo Salentino in provincia di Latina e ancora incendi a Castelvetrano e a Partanna, dove sono andati distrutti altri terreni lavorati dalle cooperative di Libra che trasformano in grano, succo d'arancia, vino e olio campi che andavano un tempo ad arricchire sanguinosi clan. Mai, come in questi mesi, i beni confiscati hanno subito un attacco così sistematico e prolungato, organizzato forse, innescato probabilmente come vendetta ad un grande tributo simbolico arrivato ai prodotti di Libera dall'espressione più alta dello Stato, il Quirinale. Don Luigi Ciotti non vuole sbilanciarsi, ma queste fiamme lo preoccupano e non poco. Era già successo in passato, in modo più sporadico. Quest'anno è venuto un fatto molto importante di grande valore, che nel momento della festa della Repubblica, il Presidente della Repubblica ha fatto una scelta molto bella, molto importante e molto positiva. Ha voluto che ci fossero solo i prodotti di Libera. Un grande segno è stato questo. E quindi quelle mozzarelle, l'uso di quell'olio, di quei vini. Questo è venuto il 1 giugno, la vigilia, nei giardini del Quirinale. L'indomani sono cominciati i primi grandi incendi ed era mai successo poi in una continuità impressionante, campi di grano, di orzo, di olivi, di aranceti, ettari bruciati, e che vuol dire per le cooperative meno olio, vuol dire meno prodotti. Però dall'altra parte oltre 6.000 giovani hanno risposto scegliendo trascorrere in tutta Italia, sui tanti beni confiscati, dove ci sono le cooperative, parte delle loro vacanze per dare una mano. Quindi questi incendi potrebbero essere stati in modo così sistematico la risposta, esatto, all'attenzione, al tributo che dallo Stato nella sua forma più alta, quindi dal Capo dello Stato, è stato dato con la presenza dei prodotti di Libera al Quirinale? Certamente è stato un segno forte perché ne ha parlato mezzo mondo. Sarà un caso, non sono in grado di poter dire, so solo che è partita proprio a raffica, ogni due giorni un incendio, una distruzione, ma sono ettari di grano, sono ettari di orzo, sono ettari di olivi bruciati. E devo dire che il governo ha risposto subito, sia il Ministero dell'Agricoltura, la mobilitazione del Corpo Forestale dello Stato su quei territori, il Ministero degli Interni, che ha dato disposizione a tutti i prefetti di vigilare, di intervenire. Devo dire che sono state fatte delle cose, ma certamente non è semplice, non è facile, ed è proseguito fino alla distruzione di ettari di questi prodotti. Qual è la regione in cui avete avuto più danni? Castelvetrano, dove stava per partire la cooperativa nuova, ma penso anche all'incendio a Mesagne, in Puglia, agli olivi in terra di Calabria, dove anche l'altro giorno è stato distrutto un trattore. C'è state delle perizie che hanno dimostrato l'aspetto doloso. Incendiare un terreno, distruggere tutto ciò che una casa tolta ai boss possa contenere, è la risposta delle mafie ad una delle leggi che più di tutte è andata a colpire il cuore del loro potere, la ricchezza e i loro simboli. Perché se non li abbiamo noi, non li deve avere nessuno. È il principio non scritto che accomuna tutti questi episodi. È successo tante volte, anche a Lamezia, in Calabria, in quella casa dei Torcasio che nessuno voleva e che è stata affidata a Don Giacomo Panizza per la sua comunità di disabili. E anche per questo lui ha subito non poche minacce. Dopo che a Natale hanno messo una bomba davanti all'ingresso di quella casa, dopo che il 26 febbraio hanno sparato dentro la casa in cucina e a Pasqua hanno sparato vicino all'entrata c'è una sala finesca e hanno sparato due colpi a 3 o 4 metri di distanza dentro casa, insomma, ecco. La restituzione alla società civile dei beni tolti alla mafia è stata la rivoluzione culturale e simbolica raggiunta dall'Associazione Libera nel 96 con 1 milione di firme che completarono l'opera iniziata esattamente 30 anni fa dalla legge Rognoni-Latorre, entrata in vigore il 13 settembre dell'82. Introdusse l'associazione a delinquere di stampo mafioso e il principio della confisca dei beni ai boss. Anche per questa iniziativa Pio Latorre, segretario del PC, fu ucciso e proprio per questo alto valore simbolico, Virginio Rognoni, allora ministro dell'Interno, ora torna a contrapporre il suo fermo no ad ogni ipotesi di vendita dei beni, ma aggiunge anche che oggi, per rispettare quello spirito di lotta alla mafia, bisogna approvare la legge anticorruzione. Straordinaria. Talvolta penso peraltro che a fronte della necessità che contro la mafia si dispieghino tutte le energie che questo paese ha in riserva, che la partita non venga giocata fino in fondo. Per esempio oggi c'è questa legge sulla corruzione che non viene avanti, ce lo chiede l'Europa. La corruzione favorisce l'inserimento nell'imprenditoria sana del denaro sporco. Alla fine finiscono per essere elementi di ritardo dello sviluppo del paese. E quindi bisogna avere coraggio anche nell'approvare questa legge. Questa legge ha però un aspetto critico che è legato proprio alla gestione di questi, spesso si tratta di beni immobili che per ragioni varie, ipoteche, storie giudiziarie complesse, finiscono per andare in decadenza e per restare lì abbandonati o per essere a loro volta vandalizzati anche dagli stessi mafiosi. A tal riguardo si è aperto anche un dibattito sull'ipotesi di vendere questi beni confiscati ai boss. So bene che c'è in prospettiva anche la possibilità di una vendita del bene sequestrato. Una conclusione questa che dobbiamo evitare. Sarebbe veramente uno smacco, è come se un capo mafioso fuggisse dal carcere duro. E forse anche di più, perché è la ricchezza che contribuisce a spendere questo potere intimidatorio della mafia. La ragione per cui la legge ha pensato di aggredire il patrimonio del mafioso è proprio perché nella ricchezza, nel patrimonio, c'è la ragione dell'esercizio del primato della mafia nei confronti dei cittadini, i quali finiscono per non vedere riconosciuti i propri diritti. Spesso capita che anche poi chi li prende in gestione, come è successo con molti anche terreni lavorati dalle varie cooperative, subisca continue intimidazioni e minacce. Ci sono aree confiscate alla mafia, in mano alla società, per così dire, dove la mafia finisce per sabotare. abitazione. Questo è un problema serio. Ecco perché occorre che lo Stato sia presente sul fronte dell'antimafia, con forza dell'ordine, con la magistratura, ma soprattutto con una società civile ordinata. Se la sconfitta della mafia è la vittoria dello Stato, occorre che lo Stato funzioni. Si deve anche considerare l'aspetto anche proprio della convenienza anche economica di una effettiva, efficiente gestione di questi beni, il cui valore viene stimato in milioni e milioni di euro. Fuori di dubbio. Rendere diffuso il convincimento che la illegalità non paga. Occorre che lo Stato mostri di essere convinto in questa battaglia. L'economia ne trarrebbe certamente un vantaggio. Questa legge porta il nome suo e di Pio La Torre, che poi appunto 30 anni fa fu ucciso. In Parlamento erano state proposte due proposte di legge, la proposta di La Torre e la proposta del governo, e stavano fermi in Parlamento. Io ricordo che qualche 30 giorni prima dell'orrendo delitto, La Torre venne da me al Viminale per rappresentarmi la posizione del partito sul fronte dell'antimafia. Alcune aree della società e della politica siciliana assai inquietanti cercavano di bloccare questi provvedimenti. Ci convenne di unirli e chiedere alle Camere di istruirle in modo che diventassero legge. La Torre non riuscì a vedere questa legge perché la mano mafiosa lo raggiunse il 30 aprile. A ciascuno il suo, termina qui. Come sempre vi ricordo, potete innanzitutto riascoltare questa come tutte le altre puntate dal sito radio24.it. Ci trovate ancora sulla pagina Facebook di Storiacce, che era il nome della nostra vecchia trasmissione, sul blog che si chiama anch'esso Storiacce, e su Twitter l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, al prossimo weekend.